Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Comunico il risultato della votazione terzo scrutinio. Voti dispersi 70, schede bianche 513, schede nulle 27. Non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, occorre procedere ad un quarto scrutinio che avrà luogo domani, sabato 31 gennaio alle ore 9:30. La seduta è sospesa. Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via, lontano. Nel patto del Nazareno non era previsto l'accordo sulla... Non sarà un sabato qualunque quello di domani, perché sapete che c'è la quarta votazione, quella che nel secondo le strategie di Renzi dovrebbe essere la votazione definitiva, quindi Mattarella Presidente della Repubblica. Staremo a vedere, perché qualcuno dice, per esempio Di Maio poco fa, dopo cercheremo, vedremo di sentirlo, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle ha detto non sono escluse delle sorprese all'ultimo momento. Sapete che vari gruppi e vari partiti o movimenti insomma stanno ancora decidendo cosa fare. Stavano decidendo cosa fare anche Forza Italia e il Nuovo Centrodestra, e doveva riunirsi alle 21 proprio in questi minuti il Nuovo Centrodestra per decidere il da farsi per domani. In realtà la decisione è stata presa. Allora Berlusconi e Forza Italia voteranno scheda bianca, mentre il Nuovo Centrodestra voterà compatto Mattarella. Sta riuscendo quindi evidentemente il piano di Renzi. Ne parleremo in modo approfondito naturalmente qui stasera, visto che domani appunto dovrebbe esserci l'ultimo voto. Vi ricordo che se avete voglia di commentare quello che si dirà tra poco, o anche semplicemente per dire quale sarà secondo voi il seguito di queste mosse, quindi che giornata sarà domani, cosa succederà, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale qualcuno ha già scritto i commenti anche oggi, oppure c'è il numero per i messaggi, SMS al 349 238 6666. Parleremo di politica, poi sapete c'è maltempo in varie parti d'Italia, flagellate da pioggia e vento e anche neve. Sentiremo anche verso fine trasmissione le previsioni meteo, parleremo anche di alcuni dati positivi che riguardano l'economia e che sembrano far intravedere la ripresa. Però vi racconto come sempre all'inizio una sintesi della giornata. Quirinale, fumata nera anche alla terza votazione, da domani basta la maggioranza semplice, Renzi lancia l'appello all'unità su Mattarella per tutti i partiti. Economia, arriva la ripresa, dice l'Istat, la disoccupazione cala al 12%, si va verso la fine della recessione. Grecia, ad Atene gelo al primo incontro con l'Eurogruppo, non trattiamo con la Troica, cioè la Banca Centrale, Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, così ha detto il neoministro delle Finanze greco. Roma, prima condanna per mafia nella capitale, 200 anni di carcere per la banda di Ostia. Meteo, l'inverno si fa sentire, piogge e bufere al centro-sud, allerta neve in Toscana, disagi a Roma e due feriti. Lutto nel mondo della musica, 72 anni è morto Maurizio Arcieri, un irregolare del pop che andava dal pop all'elettronica, creò i New Dada. Formula 1, svelata la nuova Ferrari, ora è bella e sexy, Vettel dice che lancia la riscossa. Siamo quindi naturalmente dalle votazioni al Quirinale, oggi c'è stata la seconda e la terza, e come erano le previsioni, nelle strategie annunciate nulla di fatto, nessun candidato votato ha raggiunto il quorum richiesto di 673 voti, pari cioè due terzi dei 1009 grandi elettori. Dal prossimo voto, cioè vi dicevo da domani, il quorum scende, quindi sono sufficienti 505 voti, domani potrebbe quindi essere la giornata decisiva se tutto andrà appunto secondo i piani di Renzi. Sentiamo la vice segretaria del PD Serracchiani. La proposta fatta dal Partito Democratico è verso un candidato di alta levatura, di spessore, la cui storia credo sia una storia che coinvolge un po' la storia anche del nostro paese, quindi diventa veramente difficile che qualcuno non riesca a votarlo, insomma. Quindi noi auspichiamo che ci siano le condizioni perché domani mattina il voto sia il più largamente condiviso possibile. Ultime ore febbrili dunque queste per decidere quali debbano essere le ultime mosse. Vi dicevo, Forza Italia era orientata, ma sembra abbia deciso per la scheda bianca. Si dovevano riunire i componenti del Nuovo Centrodestra dovevano capire se scheda bianca, se votare Mattarella, però avete sentito, la decisione definitiva dovrebbe essere stata quella di votare domani Mattarella. Sentiamo nel frattempo Paolo Romani di Forza Italia. nel patto del Nazareno non era previsto l'accordo sul capo dello Stato, abbiamo fatto solo un ragionamento. Nel momento in cui si applica la riforma, il nuovo assetto costituzionale e una nuova legge elettorale che dà forti poteri alla premiership, ci sembrava obbligatorio immaginare una personalità di alta garanzia per tutti che facesse da bilancio dei poteri. Questo come concetto non è stato accettato, non è entrato nelle opzioni disponibili sul tavolo, e questo abbiamo contestato. Passiamo intanto all'economia, di politica ce ne occuperemo dopo in modo ampio. C'è ottimismo sul fronte economico, secondo i dati Istat in gennaio l'economia italiana ha mostrato segnali di un possibile recupero della domanda interna, ovvero dei consumi. Con riferimento alle famiglie, il rialzo del clima di fiducia è stato sostenuto dal significativo miglioramento delle aspettative e l'aumento del reddito disponibile reale nel terzo trimestre si è riflesso in un aumento del tasso di risparmio. Sono tutti dati che dopo cercheremo di analizzare in modo anche più chiaro. Anche questa nota positiva che riguarda l'occupazione, dopo ce ne occuperemo, scusate il bisticcio di parole. Intanto oggi c'è stato lo sciopero dei bancari. Bandiere colorate, cartelloni, magliette con la scritta "Io non sono un banchiere", sirene, cori e in sottofondo la musica dei 99 Posse. È partito così questa mattina dalla sede dell'ABI in via Olona il corteo dei bancari che per la seconda volta sono scesi in strada a protestare. Scioperiamo perché vogliono toglierci diritti, non per questioni di denaro, vogliono privarci del contratto collettivo nazionale. Spiegano i manifestanti che in migliaia si sono ritrovati in Piazza della Scala. 6 o 7 mila, dicono i sindacati, che parlano di 130 pullman arrivati nel capoluogo lombardo. A manifestare anche la leader della CGIL, Susanna Camusso, con una frecciata ai manager. Basta guardare il differenziale che c'è tra le retribuzioni dei lavoratori e quelle dei banchieri per capire che quando si parla di privilegio si sbaglia obiettivo. Ogni azienda vuole avere il proprio contratto, l'ABI non esiste, dice dal palco il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni. Poi la risposta dell'Associazione Bancaria Italiana. La situazione economica è cambiata, ci vuole un nuovo modo di fare banca, dobbiamo unire recupero di redditività ed esigenze occupazionali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la situazione della Grecia, dal primo incontro ufficiale ad Atene tra l'Unione Europea e la Grecia dell'era Tsipras, del nuovo ministro Tsipras, il clima è stato positivo, ha detto il ministro delle finanze ellenico Varoufakis dopo un'ora col presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Poi c'è stata la stoccata. Non trattiamo con la Troica, cioè con la Banca Centrale dell'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, ha detto il ministro delle finanze greco Varoufakis, ribadendo di non avere alcuna intenzione di collaborare con i funzionari della Troica per l'estensione del programma di salvataggio della Grecia in scadenza a fine febbraio. Serve invece, dice, un nuovo accordo con spirito di cooperazione, con azioni unilaterali non potrà esserci sviluppo, è stata la risposta del presidente dell'Eurogruppo. E poi negli Stati Uniti, con il PIL americano nel 2014 che è cresciuto del 2,4%, il livello maggiore da 4 anni, spinto dai consumi saliti del 2,5% ai massimi del 2006, quindi continua ad andare bene l'America. Con la cronaca torniamo in Italia, 14 condanne e 5 assoluzioni per la cosiddetta mafia di Ostia, per la prima volta a Roma condanna per associazione mafiosa, prima non era mai accaduto neanche ai tempi della banda della Magliana. Pesanti le condanne per un totale di oltre 200 anni, fra cui 28 anni inflitti al capo clan Carmine Fasciani e 25 alla figlia Sabrina, ritenuta dall'accusa vero referente della banda. E parliamo adesso di Ilva perché ci sono delle novità. Stato di insolvenza per l'Ilva. L'impresa non può far fronte ai debiti con mezzi normali, scrive il Tribunale Fallimentare di Milano nella sentenza con cui dichiara l'insolvenza del gruppo Tarantino dell'Acciaio, gravato da un indebitamento di quasi 3 miliardi, e nomina come giudice delegato Caterina Macchi. La società, già controllata dalla famiglia Riva, dal 21 gennaio è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e per portarla avanti questo era un passaggio obbligato. Una notizia che arriva nel giorno in cui ancora una volta le produzioni si fermano per mancanza di materie prime e un nuovo blocco degli impianti è stato confermato dopo l'incontro con i sindacati e si arriverà ad avere al treno Nastri 2 150 lavoratori fermi contro i 76 operativi. Nel frattempo anche gli autotrasportatori continuano la mobilitazione in attesa di rassicurazioni sul pagamento dei crediti. Un segnale positivo arriva invece dall'emendamento appena depositato alla DDL Ilva con stanziamenti a favore dell'indotto. Ma a Taranto la situazione torna dunque a farsi incandescente e di questo il governatore Vendola ha già voluto avvisare il governo. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo adesso sul meteo, perché è stata una giornata, quella di oggi, di maltempo in gran parte d'Italia. Allerta neve per le prossime ore in Lazio, però la più colpita è la Toscana. Interessa prevalentemente il centro-sud dell'allerta maltempo per la forte ondata di freddo e gelo che sta colpendo gran parte del paese. La situazione più critica è in Toscana, dove le abbondanti nevicate tra Siena e Arezzo hanno messo in crisi il traffico sulla A1. A colpire Lazio e Campania soprattutto il forte vento, con alberi e rami caduti a Roma e a Napoli, 2 feriti nella capitale e 1 nel napoletano. Disagi anche a Capri e nelle altre isole del Golfo per una tempesta di vento. Nel resto della Campania il fiume Sarno è esondato in più punti, la protezione civile ha prorogato la criticità idrogeologica. Si aggrava intanto la situazione provocata dalla frana a Villa Celiera, piccolo comune in provincia di Pescara. Il fronte di 300 metri ha interessato alcune abitazioni. 9 famiglie per un totale di 16 persone sono state già evacuate e altre potrebbero aggiungersi. Al nord la neve è caduta in Veneto, soprattutto sulle Dolomiti, e Venezia si prepara ad affrontare il secondo giorno di acqua alta. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi, come dicevo, verso la fine di questa puntata sentiremo anche quali sono le previsioni meteorologiche. Adesso di nuovo all'estero, con una notizia che riguarda le donne indonesiane. L'Indonesia, sapete, è il maggior, più grande paese musulmano. Donne indonesiane che fanno diventare il selfie, cioè l'autoscatto, uno strumento di ribellione culturale. Donne indonesiane che hanno postato centinaia di selfie sfidando apertamente una fatwa, una condanna religiosa di un autorevole religioso musulmano, Felix Xio, che si considera un fautore di un califfato e un servo di Allah, il quale giorni fa con un tweet aveva condannato i selfie, sostenendo che sono un grave peccato per l'Islam, lamentando che molte donne musulmane si scattano dei selfie senza mostrare il minimo pudore. Queste donne hanno deciso di protestare, appunto, postando centinaia e centinaia di selfie. A volte anche questo può essere uno strumento rivoluzionario. Parliamo invece in Italia della scomparsa nel mondo della musica a 72 anni di Maurizio Arcieri, un irregolare dal pop all'elettronica, creò New Dada, da solista raggiunse il successo con 5 minuti e poi nell'era del punk e dell'elettronica fece coppia con la moglie Cristina Moser nel duo Crisma, si tagliò un dito durante un concerto per rispondere a delle contestazioni. E per chiudere, la Formula 1 e la Ferrari, che è stata svelata nella nuova monoposto. I think it's something special, so I can't wait to go on track and see how it feels. Non vede l'ora di andare in pista Sebastian Vettel, che dal blu della Red Bull è passato al rosso della Ferrari. But I think the car looks beautiful. La macchina sembra bella, dice il neoacquisto del cavallino che affiancherà Kimi Raikkonen nella stagione di Formula 1 che inizia il 15 marzo in Australia. La nuova SF15T, scuderia Ferrari 2015 Turbo, è molto simile all'apparenza a quella dello scorso anno, con un musetto più affusolato. Sulle prestazioni nessuno si sbilancia e anche il nuovo team principal Maurizio arriva bene, si limita a dire che l'auto è davvero sexy. I like the car of this year in terms of aesthetics. I don't know about the performance, but it's really sexy. La verità è che colmare il gap che divide Maranello dagli altri team sarà molto difficile, e lo stesso arriva bene conferma che 2 vittorie sarebbero già un successo per la Ferrari. Da domenica si inizia a provare sulla pista di Jerez in Spagna. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore. Bene, questo è il racconto della giornata in sintesi. Adesso cominceremo come al solito con gli ospiti a trattare in modo più approfondito alcuni argomenti. Leggo intanto il messaggio al 349-238-6666 di Nicola, che dice, a proposito del aver paventato delle possibili sorprese o colpi di scena da parte di Di Maio del Movimento 5 Stelle, dice: Di Maio ha poco da parlare, in 2 anni hanno mai avuto il minimo peso politico nonostante i voti ricevuti, candidare in Posimato è stato esilarante. Beh, insomma, comunque un uomo di grandissimo spessore in Posimato, poi che si siano staccati, diciamo, da quello che è stata la linea presa da Renzi. Poi vedremo, perché si riuniranno probabilmente domani mattina il Movimento 5 Stelle per decidere, visto che si dovrebbe votare, mi sembra, intorno alle 9 qualcosa. E poi altri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Nino dice: Renzi, piaccia o non piaccia, pare essere l'unico politico in giro. Fili dice: io continuo a temere un Casini all'ultimo. Stefano dice: ci potrebbe essere un arrocco postumo nella partita a scacchi, l'arrocco, cioè il cambiare posizione tra il re e la torre, se non sbaglio, e questo è l'arrocco. Bene, adesso ci prendiamo questa pausa per aggiornare chi sta viaggiando. Voi continuate a fare i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso gli SMS al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Continuano i vostri messaggi, aspettiamo, dice Elena, che sia eletto Mattarella, per carità, ottima persona, leggo, non ho grandi ricordi di lui, anche se per età dovrei ricordare. E poi Cristiano dice, non mi sembra una mossa tanto eclatante quando hai un emiciclo così modesto e dispersivo, Forza Italia non poteva imporre nulla perché per quanto un nome fatto dal PD suonasse non graditissimo, un nome, un diktat fatto da Silvio sarebbe stato un boato. Ne parleremo tra pochissimo con un esponente di Forza Italia, tra poco vi ricordo. Però, visto che c'è stata questa pausa, se vi siete persi le notizie principali ve le ricordo. Quirinale, Mattarella a un passo, appello di Renzi all'unità, Alfano verso il sì, Forza Italia annuncia la scheda bianca per domani e il candidato PD Mattarella è sopra quota 505, cioè il quorum che serve per domani. Arriva la ripresa per quanto riguarda l'economia, la disoccupazione cala al 12%, sono i dati Istat, la Grecia chiude alla troica, serve un nuovo accordo, dice il ministro delle finanze greco, Schulz attacca, Tsipras mette a rischio il suo paese. Ilva, il tribunale di Milano dichiara lo stato di insolvenza, nuovo crollo in borsa per il titolo MPS, in questo caso chiude a meno 7,83%. Silenzio dell'ISIS sugli ostaggi, Giappone in ansia e poi arriva il gelo, centro-sud flagellato da piogge e bufera, allerta neve in Toscana. Svelata la nuova Ferrari, ora è bella e sexy, come ha detto Vettel, che lancia la riscossa. Quindi stavo guardando questo messaggio che dice che un diktat di Berlusconi sarebbe suonato come un boato. Cosa ne dice Lucio Malan? Buonasera, senatore di Forza Italia. Buonasera Malan. Insomma, oggi è stata una giornata in cui ci si aspettava naturalmente di nuovo questo nulla di fatto, però ci sono stati vari spostamenti di posizione, nel senso che il nuovo centrodestra all'inizio sembrava a sua volta contrariato come Forza Italia da questa mossa di Renzi su Mattarella, invece è proprio notizia di poco fa che il nuovo centrodestra in modo compatto ha deciso di votare domani Mattarella. Voi come Forza Italia, Malan, cioè da 1,50 Berlusconi, quanto è arrabbiato di questa situazione? Ma è soprattutto deluso, perché lui ha fatto un grosso investimento di fiducia nella possibilità di collaborare con Matteo Renzi e purtroppo ha dovuto verificare la piena inaffidabilità del Presidente del Consiglio. Vogliamo sentire che cosa ha detto Brunetta in serata a proposito lui intravede un possibile rischio anche per Renzi, che sia Renzi anche a essere sotto pressione in questo momento. Sentiamo. Adesso i problemi sono di Renzi. Riuscirà il Prodi Renzi domani a raggiungere il quorum con il suo PD all'apparenza riunificato? Ma io ricordo che c'era stata l'unanimità anche su Marini e anche su Prodi. Lei, insomma, sta un po' gufando, come direbbe Renzi. No, assolutamente. Questo Brunetta. E poi sentiamo Guerini, vice segretario del PD, che cosa ha detto. Oggi mi pare che le condizioni siano francamente diverse e l'unità di ieri dell'Assemblea dei Grandi Elettori del PD credo che sia un buon viatico per arrivare ad un'elezione ampia del Presidente della Repubblica. Senatore Malan, Fitto di Forza Italia, europarlamentare, ex, si potrebbe definire, delfino di Berlusconi, poi ultimamente era stato considerato, usiamo questo termine, un po' il capofila dei frondisti di Forza Italia, quelli che perseguivano la linea dura, che dicevano attenzione, con questa sottomissione a Renzi Forza Italia si suicida, e adesso chiede Fitto l'azzeramento del partito. Che ne pensa lei, Malan? Io credo che dopo questa pagina certamente non positiva, dobbiamo lavorare in positivo invece e vedere quali sono la migliore azione politica che possiamo sviluppare come Forza Italia, e che può includere anche avvicendamenti in determinate posizioni. Credo che dobbiamo partire però da che cosa vogliamo costruire più che da chi vogliamo eliminare. Detto questo, io sono convinto che con Raffaele Fitto si può avere una piena collaborazione. È un uomo che in Forza Italia da tantissimo tempo, fin dall'inizio, non credo proprio che ci siano ragioni per interrompere questa sua appartenenza. Invece con il nuovo centrodestra, i rapporti quali sono? Ritenete che questa mossa di Renzi e il fatto che il nuovo centrodestra si sia compattato adesso negli ultimi istanti per votare su Mattarella vi indebolisca come centrodestra? Ma io credo che indebolisca soprattutto il nuovo di vista elettorale. Certo, conservano le loro posizioni di governo, ma non credo che gli italiani apprezzino molto questo tipo di politica, e anche perché stanno apprezzando meno, sempre meno, la politica di questo governo in generale. Leggevo che Formigoni, quando Renzi ha fatto nelle ultime ore un appello all'unità di tutti i partiti, ha detto cerchiamo di convergere tutti sul nome di Mattarella perché per il bene del paese, Formigoni ha detto quello di Renzi è un appello che va nella direzione che avevamo auspicato e ripara all'errore di metodo iniziale, togliendo a Mattarella quell'aura di uomo solo del PD. Questo cosa significa? Che è più una questione di metodo che non di merito, e anche per voi? Cioè doveva dire Renzi sì. Noi non abbiamo rispetto per la persona di Sergio Mattarella, e a maggior ragione se sarà eletto, ma certamente il metodo non può essere accettabile questo, tanto più quando c'era un contesto che portava sia a una scelta condivisa. Il fatto di scegliere per conto proprio e poi di, pensa un po', fare l'appello agli altri perché votino quello che io ho deciso, non mi sembra un'apertura. Io credo che il nuovo centrodestra stia dando l'appoggio a Mattarella per altri motivi e non certo per questo, per questa banalissima richiesta di Renzi, che a seconda del tono in cui è fatta potrebbe persino parere arrogante, e l'abbia fatto per altri motivi. Contropartite? Secondo lei Malan ha promesso delle contropartite Renzi al nuovo centrodestra? O minacce. Di che tipo? Ah, vi butto fuori dal governo, andiamo a votare subito, cose di questo genere. Malan, domani quindi voi che cosa fate? Avete ormai deciso definitivamente scheda bianca domani? Sicuramente non votiamo per Sergio Mattarella e credo che voteremo scheda bianca. Sentiamo cosa ha detto Fitto a questo proposito, perché una prima ipotesi era quella di uscire dall'aula. Vedremo quello che sarà deciso, noi abbiamo già indicato in modo molto chiaro che semplicemente non esiste l'ipotesi di non partecipare al voto, il Presidente della Repubblica... Potrebbe essere uno sgarbo interpretato così, no? No, ma per quanto riguarda non esiste, sono atteggiamenti sudamericani, non atteggiamenti normali, quindi mi sembra che adesso vedremo l'evoluzione. L'obiettivo è quello di tenere il nostro partito unito e di valutare la situazione, adesso vedremo quello che accadrà. Malan, le faccio ancora due domande. La Russa dei Fratelli d'Italia ha detto vedremo se il centrodestra avrà un sussulto, vediamo se indica un nome. Voi non avete un nome? Non ci avete provato neanche in questi ultimi due giorni? Avevamo indicato un nome. Amato? Non avevamo indicato Antonio Martino. Amato era una delle ipotesi, non è che è stato il nostro candidato. Credo che in questo momento francamente non abbiamo avuto il candidato di bandiera nelle prime tre votazioni, ma avercelo adesso mi sembrerebbe un controsenso, cioè non avrebbe una sua logica. Ci mancherebbero i nomi da votare. Se da domani Malan Mattarella diventa Presidente della Repubblica, voi avete votato scheda bianca, c'è stato tutto questo travaglio, dopo sul percorso delle riforme come vi comporterete? Quale sarà la linea rispetto a Renzi? Io credo che nel percorso delle riforme dobbiamo innanzitutto vedere, in ogni caso, anche se la vicenda del Presidente della Repubblica fosse andata diversamente, vedere i riflessi che si devono e ci devono essere sulla riforma costituzionale dati dall'assetto della legge elettorale, che è cambiata parecchio. Il fatto dell'appremio alla lista e non alla coalizione cambia parecchio anche rispetto a questo Senato non eletto, che però ha abbastanza potere per mettere i bastoni fra le ruote a un Presidente del Consiglio che non fosse dello stesso colore del Senato, siccome per cui sia un bel dire che con questa legge elettorale la sera delle elezioni, in realtà la sera del ballottaggio, cioè due settimane dopo, ma comunque si sa con certezza il vincitore, se poi non si sa se questo vincitore è in grado di governare, oppure questo vincitore è in grado di governare solo se è dello stesso colore del Senato, che è il cui colore è ampiamente predeterminato. Per cui credo che questo sia in una situazione, già era una cosa piuttosto problematica prima, ma in una situazione di premio alla coalizione la cosa poteva essere gestita in qualche modo. In questo modo invece si rischia davvero di avere un blocco, specialmente appunto tenendo presente che il Senato è lì, anche se si votasse quando si vota, però il Senato è già predeterminato e in questo momento è ampiamente predeterminato con una maggioranza di sinistra. Grazie senatore Malan. Grazie a voi. Buona continuazione. Grazie a voi ascoltatori. E saluto adesso il professor politologo notissimo Gianfranco Pasquino. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Come lo definirebbe tutta questa strategia di Renzi in questi giorni, soprattutto a partire da giovedì sera, ma nel senso che si è scoperto giovedì sera, ma evidentemente già si preparava da tempo? Scacco matto, possiamo dire? Ma non lo so, scacco matto, dipende naturalmente da come va la votazione domani. Dipende anzitutto se riesce ad avere una maggioranza buona e se riesce a dimostrare che è riuscito addirittura ad aggregare altri voti su una candidatura che secondo me è degnissima, che ha alcune delle caratteristiche che Berlusconi aveva chiesto. Voleva un non comunista e non c'è nessun dubbio che Next Democristiano non è un comunista e quindi non è un non comunista. Voleva una persona che desse garanzie di essere super partes e secondo me Mattarella ha tutte queste qualità e quindi credo che non votandolo i berlusconiani commettano un errore grave. Dopodiché il resto, naturalmente, gli errori ognuno sceglie di fare quelli che vuole, secondo me questo è un brutto errore che hanno già variamente commesso, lo commisero per esempio nel 2006 con Napolitano. Comunque, professor Pasquino, al di là di tutto che Renzi piaccia o no, è riuscito per ora, se non ci sono sorprese domani, a far convergere i voti su Mattarella. Si può dire che prima abbia usato Forza Italia, usiamo questo termine, Forza Italia, per costringere la minoranza PD sulla legge elettorale, no? A fare un po' quello che pensava lui, e in questo frangente invece sul Quirinale ha usato il PD, la minoranza PD, per compattare i voti e mettere in difficoltà Forza Italia? Forza Italia ha perso le elezioni, ha perso 6 milioni di voti nelle elezioni del 2013 e quindi deve essere già fin troppo grata a Renzi che l'ha imbarcata in questa operazione patto del Nazareno. Dopodiché, se non capisce la gratitudine, dovrebbe capire i rapporti di forza e quindi prendere atto che può essere usata e che nella misura in cui è in grado di elaborare qualcosa di efficace può riuscire a convincere Renzi ad andare in una certa direzione. Renzi ha anche capito che non può continuare a prendere a schiaffi la sua minoranza interna, la quale comunque fa parte del Partito Democratico e qualche volta anche qualche idea migliorative. La legge elettorale è stata profondamente cambiata e non è quella che Renzi aveva presentato. E quindi Renzi si muove abilmente, forse nel frattempo ha imparato qualcosa, perché va detto che è un neofita di tutto, del Parlamento e della carica di capo del governo. Gli è andata bene e adesso vediamo se riesce a proseguire, perché le tappe successive hanno qualche difficoltà in materia di riforme istituzionali e anche lì secondo me ha molto da imparare, per esempio su come riformare bene il Senato. Però nel frattempo incassa una qualche vittoria, devo dire che era da un po' che non incassa vittorie e infatti i sondaggi lo davano abbastanza in calo. Professor Pasquino, però non so se prima ha sentito il senatore Malan di Forza Italia, che di fronte alla decisione di poco fa del nuovo centrodestra di votare domani in Mattarella, dice: in realtà secondo me non dipende questa decisione semplicemente dall'appello all'unità di Renzi, ma da qualcos'altro, quindi potrebbe essere una contropartita o delle minacce, riteneva Malan. Se io fossi cattivo direi che i berlusconiani hanno sempre utilizzato qualcos'altro per avere qualche voto in più, un'attività intensa di convincimento di altri parlamentari. Qualcos'altro è semplicissimo, che Alfano e i suoi, che sono fondamentalmente ex democristiani, hanno preso atto che Mattarella è un ex democristiano e che ha parecchie delle doti che la Democrazia Cristiana ha avuto. Secondo, hanno anche preso atto che è utile per loro rimanere al governo e fare continuare questo governo finché si può, perché devono radicarsi nel paese, quindi non possono andare ad elezioni improvvise in tempi brevissimi, perché rischierebbero di scomparire, anche se la soglia del 3% consente comunque a un partito che nei sondaggi intorno al 4% di tornare in Parlamento. Mi pare una scelta saggia, direi anche una scelta nazionale, saggia per loro e saggia per il Presidente della Repubblica e saggia per, come dire, per una certa visione di nazione. Ultima domanda, professor Pasquino. Lei ritiene che domani, che percentuale ci possa essere di sorpresa, di colpo di scena, di imprevedibilità, di franchi tiratori nella votazione di domani? Ah, dunque, lei di tanto in tanto, lo so, mi confonde con un astrologo, mentre io politologo sono. Allora, le percentuali sono minime, cioè io non darei più del 2%, cioè se mi facesse fare il bookmaker, io darei Mattarella eletto, come dire, 1 a 1, 1 a 1,1, lei punto 1 euro, io le do 1 euro e 10 centesimi. Vabbè, ci incontriamo domani allora eventualmente per questi euro e centesimi, okay. Va bene? D'accordo. Grazie professor Pasquino, buona continuazione. Buonasera. E a questo punto lasciamo stare le stelle e capiamo domani che cosa succederà. Vedo ancora tutti i vostri commenti, ce ne sono diversi. Il popolo insorga, dice Danilo, non si capisce bene nei confronti di cosa, evidentemente qualcosa che non lo soddisfa di queste strategie. E poi Alessandro dice questa è un'apertura alla siciliana. Vabbè, ci fermiamo qui per il momento perché ci prendiamo una pausa e poi vediamo di analizzare questi dati positivi dell'economia. Ci sarà davvero è visibile questa ripresa? Effetto notte, le notizie in 60 minuti. No, Roberta Giordano con voi, come sempre, sempre dalle 21 alle 22 tutte le sere, ricordatelo, dal lunedì al venerdì. C'è gente che ascolta dall'Australia, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Danimarca. Voi siete comodamente in Italia, non perdete Effetto Notte se volete avere un quadro esaustivo della giornata e poi degli approfondimenti con ospiti sempre di grande prestigio qui a Effetto Notte. Leggevo ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli SMS al 349-238-6666. Chiede un ascoltatore, secondo Malan, chi ha la schiena più dritta fra Fitto e Civati? Lo vedo adesso, quindi Malan risponderà nei suoi pensieri. Buonasera, che fine ha fatto il rottamatore? Quando ha conquistato la poltrona tutto cambia. Molti lo rimproverano per questo, perché effettivamente Mattarella fa parte della Prima Repubblica, è un ex democristiano. Però dice anche quest'altro SMS: Mattarella, rispetto per la sua persona e la memoria del fratello caduto per mano mafiosa, ma dobbiamo proprio riesumare la vecchia politica della Repubblica ormai mummificata. Ieri in realtà si stava parlando proprio di questo, del nuovo del vecchio, e si diceva che probabilmente il problema è che la classe dirigente, quella più nuova, più rinnovata, più giovane, non ha esponenti di profilo così alto come può essere per esempio appunto Mattarella. Poi un altro SMS: un presidente degli italiani o un presidente dei partiti? Gianluca poi scrive: il nuovo, quale destra, quale sinistra, alla fine vince sempre la mitica DC. In qualche modo sarà così quando si dice moriremo democristiani, probabilmente è una frase profetica. Adesso vi ricordo quali sono le notizie principali e poi passiamo a un tema del giorno. Quirinale, fumata nera anche alla terza votazione, da domani basta la maggioranza semplice. Renzi lancia l'appello all'unità su Mattarella per tutti i partiti. Economia, arriva la ripresa, dice l'Istat, la disoccupazione cala al 12%. Grecia, ad Atene gelo al primo incontro con l'Eurogruppo, non trattiamo con la Troica, ha detto il neoministro delle finanze greco. A Roma, prima condanna per mafia, 200 anni di carcere per la banda di Ostia. Meteo, l'inverno si fa davvero sentire con pioggia, bufere, soprattutto nel centro-sud, allerta neve in Toscana, disagi a Roma. Lutto nel mondo della musica, 72 anni è morto Maurizio Arcieri, un irregolare dal pop all'elettronica che creò i New Dad. E per la Formula 1 è stata svelata la nuova Ferrari. Mentre invece l'Istat ha svelato dei buoni dati, sembra, sull'economia. In gennaio l'economia italiana ha mostrato segnali di un possibile recupero della domanda interna, ovvero dei consumi, e sembra che vada meglio anche l'occupazione. Ne parliamo con Gianfranco Fabi, che saluto. Buonasera Gianfranco. Buonasera Roberta. Già direttore di Radio 24, conduttore di Economia in Pagina, sabato, tutti i sabati alle 22.30. Gianfranco, quindi questi giorni anche Confindustria aveva detto che il 2015 è l'anno della svolta, buoni dati anche da Banca Italia. Dobbiamo vedere rosa nel futuro più prossimo? Dobbiamo certamente vedere rosa, anche se non dobbiamo così emozionarci troppo. Sicuramente qualcosa sta cambiando nell'economia, nella società, nelle imprese, quindi questi dati dell'Istat sulla produzione, questi dati sulla sull'occupazione sono certamente un segnale che c'è un clima un filo diverso, e sono interessanti appunto i dati sull'occupazione perché sono riferiti a dicembre, e quindi un mese in cui non era ancora in corso, non era stato ancora approvato il famoso Jobs Act, quindi le nuove regole sul lavoro. Gli esperti pensavano che le aziende fossero in attesa, che rimandassero l'assunzione di persone di cui avevano bisogno alle nuove regole, appunto, le nuove regole che danno anche degli incentivi per le assunzioni. Invece hanno anticipato queste note appunto positive sul fronte dell'occupazione, e questo lascia ben sperare. Adesso il Jobs Act è legge, le nuove opportunità ci sono, le opportunità anche di cambiare i contratti di lavoro da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato ci sono, quindi è possibile che nei prossimi mesi arriveranno altre buone notizie sul fronte dell'occupazione. Tra l'altro l'Eurostat, Gianfranco Fabi, l'Istituto di Statistica Europeo, aggiunge che a dicembre in Italia si registra il calo della disoccupazione più sensibile di tutta l'Unione Europea. Sì, indubbiamente, anche se dobbiamo pensare che c'è stata anche la crescita più forte nei mesi precedenti, quindi tutto è relativo. La disoccupazione italiana è ancora più alta della media europea, siamo sul 12%, in Europa è invece un punto e mezzo inferiore, quindi abbiamo ancora dello spazio da recuperare. Il problema è avviare una tendenza positiva, al di là dei dati puntuali mese per mese, una tendenza positiva che poi rimetterebbe in gioco il circolo virtuoso. Più occupazione vuol dire più redditi vuol dire più consumi vuol dire più produzione, e quindi creare nuova occupazione. Questo è il vero problema. Poi ogni cosa porta con sé un'altra cosa positiva, quindi il fatto di muoversi in un ambito positivo in questa fase è sicuramente un dato che va preso con soddisfazione. Dopo tanti mesi di recessione, dopo tanti segni negativi, ci sono segni anche in prospettiva, senza voler essere degli astrologi, e prima il professor Pasquino diceva che si chiede spesso di fare dell'astrologia, però ci sono dei dati anche sulla fiducia dei consumatori, sulla fiducia delle imprese, che sono abbastanza positivi in questo periodo, e questi anticipano in fondo una tendenza dell'economia di ripresa dei consumi, di ripresa dell'occupazione. Quindi il nostro oroscopo economico questo, diciamo, ma con dati su dati obiettivi effettivamente, concreti. Gianfranco. Sì, sono dati concreti quelli dell'occupazione, sono dati di tendenza quelli sulla fiducia, però anche questi si basano sulle rilevazioni ormai consolidate, quindi sono dati positivi, dobbiamo sperare che questi dati si mantengano. Se non ci saranno cataclismi all'orizzonte, cosa che nessuno spera, anche nei prossimi mesi ci saranno altri fattori positivi. La manovra monetaria della Banca Centrale Europea darà delle nuove disponibilità finanziarie, i tassi sono al minimo storico, il mercato immobiliare sembra dare dei segni di ripresa, i mutui stanno crescendo. Tanti segnali positivi certamente fanno uno scenario finalmente in cui un po' di arcobaleno forse si vede nel cielo. Speriamo di intravederlo. Grazie Gianfranco Fabi, vi ricordo, lo ritrovate domani a Economia in Pagina, il sabato alle 22.30 e anche domenica con incontri alle 22. Ciao Gianfranco. Grazie mille Roberta, buon lavoro. Buon fine settimana, buon lavoro a te. Adesso abbiamo gli aggiornamenti per chi viaggia. Stavo vedendo altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di Paolo che dice: Carlo Scognamiglio non potrebbe essere un presidente ideale. Adesso mi sembra che tanto ormai con i candidati la questione è chiusa, bisogna capire se Mattarella domani ce la farà, come molto probabile, al di là degli astri, oppure ci possa essere qualche sorpresa. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed ecco le notizie di nuovo, visto che ci ritroviamo, c'è stata una pausa, magari qualcuno si è dimenticato qualche notizia principale, naturalmente in primissimo piano le votazioni per il Quirinale, siamo arrivati alla terza, domani c'è la quarta e dovrebbe essere, secondo le previsioni di Renzi, quella buona, con Mattarella che ha un passo dalla presidenza, appello di Renzi all'unità, Alfano verso il sì, il nuovo centrodestra in realtà stasera ha detto praticamente che voteranno sì a Mattarella, mentre Forza Italia annuncia la scheda bianca, il candidato PD sopra quota 505. Che è la maggioranza semplice. Arriva la ripresa per l'economia italiana, avete appena sentito, dei dati Istat e la disoccupazione cala al 12%. La Grecia chiude alla Troica, Banca Centrale, vi ricordo, la Troica è Banca Centrale, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, e dice serve un accordo, e Schulz, presidente dell'Europarlamento, attacca Tsipras, cioè il primo ministro greco, mette a rischio il suo paese. Ilva, il Tribunale di Milano dichiara lo stato d'insolvenza, e poi il silenzio dell'ISIS sugli ostaggi, sia il pilota Giordano sia il reporter giapponese, quindi ansia dei familiari. Arriva il gelo per quanto riguarda il meteo in Italia, centro-sud flagellato da piogge e bufere, allerta neve, poi ne parleremo. È svelata la nuova Ferrari, ora è bella e sexy, dice il pilota Vettel che lancia la riscossa. Europa 24 notte. E nello spazio europeo torniamo a parlare del nuovo governo greco e delle sue prime mosse. Che il cammino fosse difficile era chiaro ancora prima di cominciare, considerate le premesse e le condizioni alla partenza. Ma Alexis Tsipras lo sapeva e forse anche per questo ha scelto come alleati di governo i greci indipendenti di ANEL, formazione di destra molto critica verso l'Europa, e ha affidato a Varoufakis, a detta di tutti un falco, il Ministero dell'Economia. Le dichiarazioni del nuovo esecutivo, inviate all'indirizzo di Bruxelles, sono state sfumate a seconda dei momenti, ora più dure, ora più morbide e possibili. Ieri, per esempio, in occasione della visita del presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, i toni sono sembrati concilianti. Es ist eine außergewöhnliche Ehre für mich als Präsident des Europäischen Parlaments, der erste offizielle Gast in. Salvo poi in serata apprendere che il presidente Schulz alla TV privata Sky aveva dichiarato di non essere d'accordo su molti punti con il premier Tsipras, segno che nel colloquio privato le scintille non sono mancate. Oggi il ministro Varoufakis ha cominciato una serie di colloqui con diversi omologhi e funzionari europei delle organizzazioni finanziarie internazionali. Prima il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, e quello dell'Euro Working Group, Weiser. Lunedì Varoufakis andrà a Londra per incontrare il collega britannico George Osborne, poi sarà a Parigi e martedì a Roma. Dopo le prime esternazioni colorite con le quali ha definito gli accordi con l'Europa un errore tossico o un waterboarding fiscale, anche Varoufakis ha abbassato i toni, complice la velocità con cui fuggono i capitali dal paese. In una intervista concessa ieri sera, il ministro afferma che è sbagliato vedere la situazione in una ottica del prendere o lasciare. Vogliamo negoziare, ha ribadito, ma riscrivendo tutto il programma con l'Europa. L'Europa e non le singole cancellerie. Non è un problema tra Grecia e Germania, è un problema dell'Unione intera. Questa è l'idea di Tsipras e del suo governo. E questa è anche l'idea di molti tedeschi arrivati ad Atene per manifestare la propria solidarietà. And we are here to show our solidarity to the Greek people, and we want to say that the interests or there are no difficulties or no problems between Greece and German people. There are only problems with the policy of Angela Merkel and the rich people here. There's no border between nations, there's only borders between rich and poor. And we are also here to see that alternative policy is possible for us. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ritorniamo sugli altri argomenti. Vedo nel frattempo che sulla pagina Facebook Adriana ha scritto: la Grecia si muove eppure velocemente, noi qui a giocà, dice Adriana. Speriamo che dagli spiragli sull'economia di cui abbiamo parlato prima possa sorgere un avvenire migliore, per così dire. Effettivamente qualcuno sta commentando che Tsipras è stato accolto poi alla fine con tanto entusiasmo da vari leader europei, perché potrebbe essere la testa di rete, oppure, detto un po' fuori dai denti, potrebbe fare il lavoro sporco che gli altri non si sentono di fare, esponendosi, diciamo. Poi invece a proposito di altri messaggi, sempre su Mattarella, su questa strategia di Renzi, sulle difficoltà in cui si trova il centrodestra, ma Mattarella al Colle, oltre che compattare il PD, scrive Federico da Forlì, e mettere in scacco Berlusconi, servirà per mettere la firma del padre del vecchio Mattarellum sull'Italicum e far tacere per sempre chi dice che l'Italicum è incostituzionale, chiede Federico. Inoltre Mattarella è anche un giudice costituzionale, scaltro Renzi, dice Federico. Questa è la lettura quindi di questo ascoltatore. E direi a questo punto di leggere invece, parliamo di molte previsioni questa sera, ma nulla di astrologico, su via, chi fa un certo mestiere, che fa, si occupi di politica o di meteo, saprà guardare con lungimiranza, qualcuno con degli strumenti scientifici, qualcuno un po' con l'intelletto e l'esperienza. E quindi ci riferiamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo? Sì, buonasera Roberta, eccomi. Buonasera Cavolo. Insomma, diciamo che l'inverno sta cominciando a farsi sentire. Abbiamo visto piogge, vento in Piemonte, Lazio, e poi in Campania è esondato un fiume, e mi pare che anche la Toscana sia in difficoltà per la neve. Sì, in effetti condizioni meteorologiche meteorologiche piuttosto pesanti in molte zone del paese. Fino ad ora l'inverno era stato particolarmente mite, direi. Ora comincio a far la voce grossa. In realtà sta facendo l'inverno, ecco, giusto per sottolineare le cose nella maniera secondo me più corretta. Quindi nulla di catastrofico, per fortuna, però in effetti condizioni in molte zone anche un po' difficili. Che succederà? Succederà nelle prossime ore, per l'intero fine settimana, che queste condizioni in realtà proseguiranno al centro-sud, quindi ancora una volta l'Italia divisa in due, ma in qualche modo ribaltata, con il nord che avrà condizioni meteo buone, tutto sommato, anche se con temperature basse, e invece il centro-sud che dovrà fare i conti ancora con venti forti, piogge in alcuni casi abbondanti, soprattutto sul versante tirrenico, Lazio, Campania, ma anche le isole maggiori, la Calabria, vedranno piogge importanti, e anche la neve però per l'Italia centro-meridionale solo sull'Appennino, quindi non a quote bassissime, però insomma anche la neve sarà protagonista del weekend. E ti anticipo che non finisce qua in realtà, perché settimana prossima ancora avrà caratteristiche tipicamente invernali, con probabilmente anche il ritorno della neve al nord fino a quote basse, quindi stavolta anche il nord verrà ricoinvolto da condizioni di tempo perturbato. Quando speravamo, Paolo Corazzone, almeno per quel che mi riguarda, e qualcun altro, perché tanti scopro che amano il freddo, amano l'inverno, per carità, le stagioni devono essere quelle che sono, però dico, in realtà ci eravamo illusi di averla un po' scampata, perché gennaio era passato, come dicevi tu, con delle temperature abbastanza miti, vari giorni di sole, tutto sommato non era stato così terribilmente tradizionale, diciamo ortodosso come inverno. Invece inizierà a essere questo, o di nuovo ci sarà un cambio di rotta? Guarda, per qua, intanto c'è da dire che ci sono varie fazioni, in effetti. C'è chi è contento degli inverni miti, c'è chi invece spera sempre in inverni che facciano gli inverni. Bene, adesso per qualche periodo, io ritengo almeno una quindicina di giorni, quindi arrivare fino a metà febbraio avremo a che fare con l'inverno, quello vero. Poi piano piano ci riporteremo verso condizioni un po' meno pesanti, diciamo. Però in realtà non calcherei troppo la mano, cioè le prossime due settimane, per quanto invernali siano, saranno il giusto inverno, non so come dire. Certo dovremmo sopportarlo, ma io non so, io ricordo quando ero piccolino gli inverni erano veramente cattivi alle volte. Ora si limitano a qualche settimana, per fortuna, ci serve a dire. Ecco, per le prossime due teniamo duro, perché l'inverno sarà l'inverno. Ma secondo te, per chiudere, Paolo Corazzone, se non ti chiedo di andare troppo in là, le stagioni a seguire quest'anno già si prevede che sono che sono mischiate? Sorrido, perché in realtà è una domanda più che legittima, ma veramente le previsioni a lunga scadenza sono ancora affette da errori enormi. Ti volevo esporre al pubblico ludibrio. Ma mi piace anche le volte sbilanciarmi. C'è da dire che in realtà contano più discorsi statistici a questo punto, cioè negli ultimi anni come è andata a finire? Negli ultimi anni è andato a finire che tutto il clima, non solo quello invernale, ma anche quello primaverile, estivo e autunnale, si sta rivelando spesso molto anomalo, quindi temo che altre sorprese le avremo nelle prossime stagioni, e forse quello che consideravamo anormale forse diventerà normale, e quindi incrociamo le dita, ma l'estate prossima chissà, forse sarà capricciosa come la scorsa. Purtroppo diventa sempre più difficile fare previsioni, e purtroppo dobbiamo attenderci sempre più frequentemente qualche scherzetto. Non ci sono più mezze stagioni. Grazie Paolo Corazzone. Ciao, buona serata. Ciao, caro Paolo, noi a tra poco.